entrarono in farmacia, si inseguirono fino al crocevia, si scambiarono occhiate alla fermata del tram ed era lei che gli si avvicinò. Se questa fosse una canzone normale, avremmo il tempo per sapere com'è andata a finire questa storia d'amore, com'è andata a finire. Ti è piaciuta, Gioele? Mi è piaciuta cosa? È la canzone. Ah, perché questa sarebbe una canzone? Canzone bonsai, 40 secondi. Enzo, dai, alla tua età ancora fai queste cose, 40 secondi in cui oltretutto non dici niente, perché io mi sono anche un po' appassionato a questa storia della farmacia. Certo. Però c'è il tram davanti, hai detto tu stesso. Sì, però... Se risparmiavi 20 secondi di dire che non potevi dire che dicevi, dicevi. Beh, ma adesso c'è la seconda. Ah, c'è la seconda. C'è una seconda canzone che si intitola Nascerà una nuova storia d'amore, ma forse vedremo due, La vendetta.